Vi siete mai chiesti quanti passi vi separano dalla libertà? Ma poi cos'è la libertà? Vieni al mondo e quel che sei è solo il frutto di un caso. Al frutto di quel caso attribuiscono un nome, un cognome, un destino. Le chiamano radici e quelle sei costretto a portartele dietro. Ma cos'è la libertà in una società che favorisce il malgoverno, la malavita, la mafia, la camorra, la partitocrazia, che ostacola la ricerca scientifica, la cultura? Una società, come ha scritto Ennio Flaviano, dominata dalla tribù, dagli stregoni della tribù, dalla chiesa, dai servi, dai miserabili e dagli avidi di potere. Questa è la storia di un uomo che quei passi ha osato contarli, la storia di un destino segnato da un cognome, la storia di una radio. Sto parlando di Peppino Impastato, che dai microfoni di Radio Out denunciava imbrogli e prendeva in giro il boss Gaetano Badalamenti. Io sono Livia Napolitano, sono napoletana, vivo a Genova e questa è Radio 100 Passi. Attraverso la rete abbiamo unito tre città con storie di distinta resistenza, Genova, Napoli e Palermo, per realizzare un personale omaggio a chi quei passi li ha proprio contati. A Cinisi, dove Peppino Impastato viveva, lì dove c'è morto, questa storia la conosce anche la pietra, così come la Sicilia tutta. Altrettanto a Napoli, città tellurica, insieme a quella di altri eroi locali che hanno pagato con la propria vita la loro dissidenza. Mentre al nord, in città come Genova, non è proprio così. Da queste parti la mafia, così come la camorra, l'andrangheta, sono da sempre ritenuti fenomeni relegati a quella porzione d'Italia che guarda verso sud. Mentre da tempo è chiaro che gran parte dei suoi investimenti la malavita organizzata li fa proprio qui. Questo personale omaggio, realizzato grazie alla collaborazione di alcuni cantautori genovesi e musicisti del sud, vuole essere un modo per ricordare chi ha avuto il coraggio di urlare il proprio no e a quello unire il nostro contro quell'Italia anestetizzata dalla mediocrità televisiva e culturale. Un modo di agire come lo scrivano, il personaggio del romanzo di Herman Melville, che preferisce dire no agli ordini del proprio superiore. Un no determinato e secco che sale dal profondo. Un no che vuole essere il nostro modo segreto per contare quei passi e rifiutare la fantacrazia di un paese che di favole ne ha ben poche da raccontare. Benvenuti nella terra delle strane meraviglie, giovani e studenti attaccati alle bottiglie, madri distratte, mogli commerciali, mariti assassinati però per vie legali e omicidi in tutti i gradi, o da romanzi noir, assassini intervistati al posto delle star, deve sull'Italia e sui banchi di scuola, la gogna degli stronzi per chi dice una parola, e vecchi politici e puttane di ogni età, la gogna degli stronzi per chi ne parlerà, e un 2, 3 a stare sotto tocca a te, questa è la democrazia del paese delle favole, 1, 2, 3 a stare sotto tocca a te, questa è la democrazia del paese delle favole. Melissa lavora dal mercato la sera, non le serve compassione, non le serve una preghiera. Melissa lavora dal mercato la notte, i suoi demoni custodi c'han bisogno di risposte. Teresa ha deciso che per la maturità, il pomeriggio dopo a casa tornerà. Teresa ha deciso che per la maturità, se esce con 60 si concederà. E 1, 2, 3 a stare sotto tocca a te, questa è la democrazia del paese delle favole. 1, 2, 3 a stare sotto tocca a te, questa è la democrazia del paese. Paese delle favole. La vetrana chiama, Brembate risponde, a Roma e Milano ci parla e ci confonde, reale o surreale ma seguito da miliardi di santi ipnotizzati davanti agli schermi, e dietro le quinte c'è la grande frenesia di un'Italia tradita ma sotto anestesia, e dietro le quinte c'è la grande frenesia dei cervelli da 90 che se ne vanno via, e 1, 2, 3 a stare sotto tocca a te, questa è la democrazia del paese delle favole, 1, 2, 3 a stare sotto tocca a te, questa è la democrazia del paese delle favole. fratello e la grande sorella. Orwell nella tomba con una rivoltella. Il grande fratello e la grande sorella. L'Italia che passa dalla brace alla padella. Il grande fratello e la grande cugina. L'Italia che passa dalla brace alla latrina. Il grande fratello e la grande cugina. E l'Italia che passa dalla brace alla latrina. E un, due, tre a stare sotto tocca a te. Questa è la democrazia del paese delle favole. E un, due, tre a stare sotto tocca a te. Questa è la democrazia del paese delle favole. Un, due, tre a stare sotto tocca a te. Questa è la democrazia del paese delle favole. Un, due, tre a stare sotto tocca a te. Questa è la democrazia del paese delle favole. Ecco, avete appena ascoltato Fantacrazia di Andrea Facco, cantautore genovese. Giochi di parole, satira ed ironia erano proprio le armi usate da Peppino Impastato per denunciare nella sua trasmissione Onda Pazza ogni sorta di speculazione e uso dell'amministrazione pubblica dei politici locali a fini personali. Così Cinisi diventava Mafiopoli, il boss Gaetano Badalamenti Tano Seduto e così via. Non risparmiava proprio nessuno Peppino e la sua trasmissione era tutta basata sull'improvvisazione. Ora ne sentiremo qualche stralcio. Buon ascolto. Che il cielo sia costantemente azzurro, che il sole splenda sempre allegramente, che tutto quanto sia sempre sereno, ruscelli, prati verdi e arcobaleno. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. E arriva Onda Pazza, sì, siamo è Onda Pazza questa, sì. Onda Pazza. Sono arrivati i pazzi, sono pazzi questi. No, forse no. I pazzi sono quelli che stanno fuori, come si dice, sì. Ma fuori dalla sala trasmissione o fuori da qualcos'altro? Fuori, dappertutto, fuori. Democraticamente capito, sì. Libertà. Diciamo. I pazzi sono out. Allora. E stasera non è solo Onda Pazza, ma è Maruso Voite. E c'è una grossa mareggiata. È cretina commedia. Ma no. Come cretina? Cretina commedia. Adesso vedrai, adesso vedremo un po' tutti. Tutto va bene, c'è la salute, tutto va bene, siamo tutti amici. Dagli studi di Radio Auto avete il piacere di ascoltare La Cretina Commedia. La Cretina Commedia. Peppino Impastato praticamente si serviva dell'inferno di Dante per mettere alla berlina mafiosi e politici collusi. Parlava di un paese caduto in basso, un paese corrotto che non impara dalla propria storia, un popolo disinformato e menefreghista. Se ci pensate, niente di diverso da quello che abbiamo vissuto con l'Italia berlusconiana, un governo coinvolto in scandali, feste mondane, puttane e corruzione. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Si è smarrito. Che la diritta via era smarrita, sì. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura quella minchia selvaggia e aspra e forte che troneggiava in mezzo alla radura. E riguardai con grande stupore perché vidi un paese abbandonato da dove usciva fuori un gran fettore. Eh sì, un fettore che persiste in ogni parte del paese, oggi come allora, da nord a sud. Pensate che è recente notizia che proprio in Liguria, precisamente a Savona, è stata intitolata una via Peppino Impastato. Nobile iniziativa, direte voi. E invece no. Qui c'è il sapore della beffa, perché quella strada si trova nel complesso edilizio realizzato sulle aree dismesse dell'Italsider. il Crescent di Savona, un vero e proprio ecomostro finito sotto inchiesta per un buco di 9 milioni di imposte evase. Una di quelle speculazioni edilizie che Peppino Impastato avrebbe denunciata a squarciagola, alla quale è seguita la speculazione di un nome, il suo, tanto da dover chiedere l'intervento di suo fratello Giovanni Impastato, che ha chiesto fosse fatta chiarezza e quanto possa essere coerente col pensiero di Peppino Impastato. Proprio lui, che sosteneva che bisogna educare la gente alla bellezza. Vi leggo ora proprio le sue precise parole. Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un'arma contro la paura, contro l'omertà. All'esistenza di orrendi palazzi ci si abitua. Ogni cosa pare che debba essere così da sempre e per sempre. Insegniamo la bellezza alla gente, così non avremmo più abitudine, rassegnazione, ma curiosità, stupore. Soprattutto tu non lascerai impronte. Questo è quanto devi sapere, vediti fartelo passare. Quando avrai bisogno noi ci saremo. Ricorda che in cambio sarai il nostro braccio. Ogni tuo debito è nostro credito, accetta il nostro patto, riceverai rispetto. Fango sulle mani, fango mescolato al sangue, fango sugli appalti, crepe sotto il sole. Nel tempo libero, tra un favore e l'altro, giocherai a scacchi con i tuoi demoni. Spiegherai ai tuoi figli che non puoi parlare. A tempo debito faranno la loro scelta. Fango sulle mani, fango mescolato al sangue, fango sugli appalti, crepe sotto il sole. Fango sulle mani, fango mescolato al sangue, fango sugli appalti, crepe sotto il sole. Fango, questo è il brano della cantautrice genovese Valentina Mandolese che ha vinto l'edizione 2015 di Musica contro le mafie. Il fango che macchia ogni cosa, che rende ogni paesaggio desolato, diviene metafora di interessi mafiosi ed economici. Musica quindi come forma di dissidenza e resistenza, come il prossimo brano che ascolterete, che è stato improvvisato qui mentre registriamo, quindi perdonerete qualche imprecisione. A raccontarvi la storia di questa canzone sarà Sebastiano Guido, guida, originario di Partinico, che con il duo Scilla e Cariddi, come facevano un tempo i cantastorie, porta in giro la storia del suo popolo. Lo accompagna la lira calabrese Carmine Fontana. Il brano che faremo adesso con Scilla e Cariddi duo, che è un duo di cantastorie, è un brano che si intitola Pirati a Palermo, è stato scritto sotto forma di poesia da Ignazio Butitta. Racconta delle invasioni piratesche del Nord Africa durante il Medioevo, ma ha un altro significato. Butitta e Rosa Balistreri, che poi ha musicato e cantato questo brano per tutta la sua vita, avevano dato un altro significato. E la metafora del pirata era riferita alla metafora del mafioso. Il mafioso che strappa tutto, che strappa i beni di consumo della povera gente e strappa l'onore della povera gente. Ha un altro significato questa canzone. La parte finale di questa canzone parla della violenza alle donne. Rosa Balistreri, che per tutto il Novecento fu un'interprete, una ricercatrice della musica popolare siciliana, fu anche comunque il simbolo del femminismo siciliano. Infatti questo ultimo, la parte finale di questa canzone parla proprio della violenza che i pirati perpetravano ogni volta che invadevano le coste del sud Italia. Ma anche questa è una metafora di quanto le donne, comunque in una terra ancora molto patriarcale, soprattutto nei primi del Novecento, fosse difficile esprimersi anche da un punto di vista artistico. Pirati a Palermo. In questo omaggio alla memoria di Peppino Impastato abbiamo unito voci diverse da nord a sud, ispirandoci proprio alla sua capacità di aggregazione e di comunicazione che ne hanno fatto un vero e proprio pioniere di alcune modalità di protesta. Per farvi un esempio, aveva messo su il Circolo della Musica, altro non era che uno dei primi centri sociali nei quali riuniva giovani e cercava di creare un movimento, ma un movimento pacifico che attraverso l'arte e la bellezza idealisticamente combatteva la violenza. Ma sentiamo la testimonianza di chi quella realtà la conosce molto bene e ascoltiamo Alessandro Guida, che subito dopo interpreterà a suo modo alcune poesie scritte dallo stesso Peppino Impastato. Ciao a tutti, io sono Alessandro, originario della provincia di Palermo. I miei genitori sono entrambi nati a Partinico, un paese molto vicino al paese di Peppino Impastato. Ho avuto occasione di frequentare la casa museo ormai di Peppino Impastato, di conoscere vari ragazzi volontari che fanno parte di questa associazione. E il mio parere personale di Peppino Impastato, del quale bene o male tutti conosciamo la storia e le vicissitudini, vuole soffermarsi in particolare sulla sua metodica, la lotta contro la mafia del suo paese, la lotta in particolare con quello che era il boss di Cinisi, facente parte anche per parentele trasversali anche della stessa famiglia. Il mio pensiero anche sulla sua metodica di lotta contro la mafia, che si svolge in una maniera, diciamo, per la Sicilia, per Cinisi, per quel paese, in una maniera molto, molto progressista, se vogliamo, perché è una lotta non solo non violenta, è una lotta che sfrutta diverse risorse, sia tradizionali che innovative. Una delle risorse tradizionali che mi viene da pensare, e per chi ha visto il film, comunque così è successo realmente, per esempio la scena dove lui sotto il municipio con un cartello racconta di questa storia della costruzione, diciamo, dell'autostrada, e lo fa con una metodica che si rifà molto allo stile dei cantastorie siciliani, quindi a schernire, diciamo, l'istituzione, il sindaco, lo fa in una maniera, tra virgolette, rende una tragedia anche in maniera così, la ridicolizza, e contemporaneamente quindi costruisce, mette su con pochi mezzi questa radio per far arrivare almeno nei paesi limitrofi questa sua metodica di lotta alla mafia, ironizzandone, facendo una caricatura anche dei personaggi. Mi viene in mente la cretina commedia, il soprannome dato a quello che era un boss, sì, di Cinisi, ma che aveva anche un certo potere anche in generale tutta la Sicilia, e quindi del creare anche questo spazio sociale dove all'interno si faceva musica e cultura, per, come dire, allontanare in maniera, anche a livello pratico, creare alternative pratiche, contaminare anche i ragazzi che stavano attorno a lui della stessa passione per la bellezza, per la gioia. Molti a quei tempi probabilmente lo hanno anche considerato un folle per questa sua schierarsi facendo nome e cognome contro questo personaggio, contro suo padre che faceva parte dello stesso tempo della famiglia mafiosa di Badalamenti. In realtà penso sia più che un pazzo, sia stato un sognatore, un sognatore che proprio attraverso questi sogni che si sono poi praticizzati, diciamo, ha avuto modo di lottare senza troppo farsi schiacciare dalla paura della morte, insomma. Può succedere solo, appunto, a una persona che ha un potere di sognare così in grande, di realizzare, di mettere in pratica e creare queste alternative reali, alternative che non si fermavano solo a una propaganda, erano costruttive. Se non forse per una differente corrente, se vogliamo, politica, quasi mi viene quasi a momenti di paragonarlo a una lotta come quella di Gandhi, cioè voglio dire, una lotta che era non violenta, che allo stesso tempo creava e creava alternative reali e pratiche. Quindi un esempio secondo me da prendere anche i giorni nostri, cioè quindi lottare e vuol dire creare alternativa. Appartiene al tuo sorriso l'ansia dell'uomo che muore, allo sguardo confuso chiede un po' d'attenzione, alle sue labbra del rosso corallo un ingenuo abbandono, vuol sentire sul petto il suo respiro affannoso. È un uomo che muore. La prossima poesia di Peppino Impastato verrà svolta con la tecnica ispirata ai cantastorie siciliani. Sentirete una differenza del suono, appunto, della voce. Lunga è la notte e senza tempo. Il cielo gonfio di pioggia non consente agli occhi di vedere le stelle. Non sarà il gelido vento a riportare la luce, né il canto del gallo, né il pianto di un bimbo. Troppo lunga è la notte, senza tempo, infinita. Infinita la notte, come infinite devono essere state le 8.760 notti di Felicia Bartolotta, prima di poter veder sorgere il sole di quel giorno, all'età di 86 anni, in cui fu emanata la sentenza di ergastolo a carico di Gaetano Badalamenti. Infinita ogni notte. Sì, perché il corpo di Peppino fu trovato sui binari che attraversano le campagne di Zagara, tra Cinisi e il mare. La notizia che uscì sui giornali il giorno dopo portava il titolo di terrorista maldestro saltato in aria nel tentativo di collocare un ordigno dinamitardo. Poche righe inghiottite dalla più clamorosa notizia del ritrovamento del corpo di Aldo Moro. Il caso di Peppino Impastato fu archiviato come suicidio e solo grazie all'impegno della famiglia, degli amici più cari, che fecero loro stessi delle ricerche. E in un casolare poco distante dal luogo dove fu trovato il corpo venne rinvenuta una pietra macchiata di sangue che fu poi dimostrato appartenere a Peppino. Alla vita di Peppino Impastato è stato dedicato il bellissimo film di Marco Tullio Giordana, premiato al Festival di Venezia nel 2000. Il titolo, 100 passi, è la distanza reale che separa la casa di Peppino da quella di Gaetano Badalamenti, il boss. Quella casa, bene confiscato alla mafia, è divenuta oggi sede di Radio 100 Passi. Da lì è ripartita la conta dei sogni ed è da lì che oggi vi arriva la mia voce. Ma voi, vi siete mai chiesti quanti passi vi separano dalla libertà? 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 60, 71, 72, 73, 74, 75, 86, 87, 78, 89, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 70, 71, 72, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Cento.